come ci ricorda ancora la toponomastica di via Canaletto e di via Due Canali. Quest'area che era la valle del centro storico, per ragioni idrauliche, era il porto di Modena, quindi è da lì che arrivavano tutte le novità in città. Poi nella configurazione attuale anche è stato ridisegnato completamente come un quadrante urbano nuovo, insieme a Città della Ferrovia, contestualmente all'infrastruttura. L'innovazione quindi mi sembra che sia una costante in questo luogo e tuttora è in fase di grande trasformazione. E naturalmente l'università ha trovato qui un contesto favorevole alla ricerca. Dal 2017 i dipartimenti di ingegneria, matematica, economia e giurisprudenza collaborano al progetto MASA, che è l'acronimo di Modena Automotive Smart Area. In questo quartiere si sono svolti anche i primi test di guida autonoma, tra diffidenza e curiosità dei passanti, che però alla fine si scoprivano anche un po' orgogliosi quando riconoscevano il suono di una Maserati costruita a Modena e vedevano che c'erano sopra i ragazzi della loro università. Modena, pensavano di trovare gente coi carretti, invece c'hanno infrastrutture pronte ad accogliere insomma, operatività importanti. CCAV, Connected and Cooperative Autonomous Vehicles. ADAS, Advanced Driver Assistance Systems. LIDAR, Laser Imaging, Detection, and Ranging. V2X, Vehicle to Infrastructures. MaaS, Mobility as a Service. ODD, Operative Design Domain. ADS, Automated Driving System.